intanto vi saluto, vi ringrazio di essere qui con noi e ringrazio soprattutto i nostri ospiti. Questa sera abbiamo con noi la professoressa Nives Zaccaria, Maria Nives Zaccaria, che è stata insegnante al liceo classico Giuseppe Carducci, la ricordiamo tutti con grande piacere. Ma non solo, è giornalista, è attivissima, è ricercatrice, è storica, ha fatto un percorso poi di studi, ha continuato, è sempre rimasta impegnata con grande competenza e passione ad argomenti a lei molto affini, ed è anche vice direttrice della radio Sacra Famiglia, la radio che ha sede nella diocesi ed è nella rete appunto delle radio della CEI in blu. Questa sera è qui con noi, è la prima volta che ospitiamo la presentazione di un suo libro e spero che ci sia poi un proseguimento. E un libro particolare, una grande ricca documentazione storica, una ricerca approfondita sul Concilio Vaticano e diciamo il pregio anche di questo libro, come è stato sottolineato anche all'interno dello stesso, è quello di essere il frutto di una ricerca molto meticolosa ma anche e professionale, ma anche di lettura, di facile lettura, quindi si può veramente esplorare un mondo che non è proprio così facile e così alla portata di tutti, ed entrare anche in questi meccanismi che fanno parte della nostra storia e della nostra cultura anche italiana. Io ringrazio anche Paolo Valente che è qui con noi, ci accompagnerà in questo percorso, da pochi giorni direttore della Caritas, quindi l'abbiamo salutato la scorsa settimana, lo ritroviamo qui in un'altra veste e ci fa sempre piacere. Come vedete, questa presentazione sarà accompagnata anche da delle bellissime immagini che non voglio anticipare troppo, e quindi immagino sarà veramente una serata molto interessante. Vi segnalo poi anche l'appuntamento di domani, che è alle 17.30 e sarà appunto la presentazione di un manuale di psicoterapia che parlerà del cambiamento. Sarà con noi la professoressa Martinelli, e Gandolfi Martinelli e Max Torre. Vi ringrazio, rinnovo l'invito a venire in biblioteca perché, come vedete, anche attraverso queste iniziative di promozione alla lettura, di incontri con le autrici, con gli autori, cerchiamo sempre di creare delle nuove occasioni di lettura, di curiosità e di scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa che possa anche avviarci a un cambiamento, come sarà il tema anche di domani. Grazie, grazie a voi soprattutto, grazie. E buona serata. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho il compito di fare una breve introduzione e poi di dialogare un po' con l'autrice di questo volume, che ci presenta i contenuti di qualcosa che è avvenuto 50 anni fa, quindi potremmo già chiedersi fin da subito se vale la pena parlare di qualcosa di così lontano o se invece ha una sua attualità che riguarda anche i giorni nostri. In realtà già noi due, così come siamo stati presentati, rappresentiamo qualcosa che ha a che fare col Concilio Vaticano II, l'impegno della comunità cristiana nel mondo dei mass media, un certo rapporto con la comunicazione e con la comunicazione sociale, che è oggetto di un documento del Concilio Vaticano II, e l'impegno della Chiesa nel mondo contemporaneo, nella società, di cui anche la Caritas, nella forma in cui la conosciamo, è in qualche modo espressione di un cammino, di una riflessione che partono proprio dal Concilio Vaticano II. Proprio questa mattina c'è stata una conferenza stampa e un incontro in cui sono stati presentati i primi risultati degli incontri che si sono tenuti in varie località in relazione al sinodo diocesano che è stato lanciato l'anno scorso, che è partito alla fine di novembre e che la prossima settimana avrà la sua seconda sessione. Proprio in preparazione di questa seconda sessione, dove i sinodali sceglieranno i temi su cui discutere nei prossimi 2 anni, 1 anno e mezzo. Ecco, in preparazione a questo c'è stata una grande opera di coinvolgimento, di consultazione della popolazione, forse alcuni di voi anche hanno partecipato, e oggi sono stati presentati i risultati, l'analisi, i temi più gettonati, quelli un po' più trascurati, e anche in quell'occasione è stato citato il Concilio Vaticano II. In particolare un documento che a me sta molto a cuore, che è la Gaudium et Spes, Costituzione Pastorale, che si occupa appunto della Chiesa nel mondo contemporaneo. È stato detto che è uno dei documenti più dimenticati del Concilio Vaticano II, anche se in realtà è vero che è dimenticato perché prevede un impegno notevole da parte delle persone, quindi si tende un po' magari a non ricordarlo, però è anche uno dei più citati. Basti pensare alle prime righe di quel documento, che forse anche voi avete sentito molte volte e che comunque esprimono molto bene la nuova aria che si è incominciata a respirare col Concilio Vaticano II. Dice così: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Quindi è una dichiarazione molto chiara di voler esserci nel mondo, e soprattutto con una prospettiva che è quella di esserci a fianco di chi è più debole e maggiormente in difficoltà. Concilio Vaticano II fu annunciato nel 1959 da un papa molto anziano che era stato eletto l'anno prima e da cui nessuno si aspettava che avrebbe indetto un concilio ecumenico. Invece le cose accadono, le cose importanti accadono indipendentemente dalle aspettative e dalle previsioni. Ci fu un tempo di preparazione, poi i lavori cominciarono nell'ottobre del 1962, ci furono diverse sessioni importanti e si concluse l'8 dicembre del 1965. Quindi l'8 dicembre del 2015 ricorreranno i 50 anni della chiusura del Concilio e in concomitanza è prevista anche la chiusura del nostro sinodo diocesano. Grandi le novità che ha portato questo concilio, non nel senso di aver inventato cose nuove, ma di averle sottolineate, di aver riscoperto le novità che già di per sé il Vangelo contiene. Un evento che ha visto migliaia di protagonisti, ma in modo particolare i due papi, quello che l'ha lanciato e quello che l'ha continuato e concluso, quindi Giovanni XXIII, che l'ha inventato, per così dire, che l'ha avviato, che gli ha dato anche una prospettiva, e Paolo VI, che ne ha raccolto l'identità, che l'ha rilanciato in modo convinto e che l'ha concluso appunto nel dicembre del 1965, non solo, ma poi ha cominciato a dare attuazione alle novità contenute del Concilio, come hanno fatto poi i papi che lo hanno seguito. Ecco, di tutto questo parla in modo dettagliato il libro che oggi andiamo a presentare, Nel tempo della grazia, una rilettura del Concilio Vaticano II alla luce dello Spirito Santo, di Maria Nives Zaccaria, che è già stata presentata, quindi io non mi ripeto. Forse aggiungo il suo impegno, immagino pluridecennale, nel movimento del rinnovamento dello Spirito, quasi 40 anni, ecco. Che naturalmente ha ispirato anche questo lavoro, immagino. Ecco, io mi fermo qui, adesso guardiamo un breve delle immagini e poi incominceremo a dialogare con Maria Nives Zaccaria. Ecco, vorrei presentare però prima. Ah, ok. Scusate se mi alzo, anche perché poi voglio vedere insieme a voi. Allora, sono dei documentari storici originali dell'Istituto Luce e ci permettono di vedere, è più importante vedere che non ascoltare, che cosa è stato la prima impressione, insomma, che cosa è stato questo concilio. E nel primo documentario, nella Gloria di San Pietro, vediamo l'inizio con la processione di apertura. Avete modo di vedere anche com'era la Chiesa prima, anche quando apparirà il Papa con il baldacchino, con tutti gli ornamenti, insomma. La Chiesa è diventata molto più semplice dopo il Concilio. Ecco, questo ci farà vedere un po', ci fa dare uno sguardo abbastanza generale. Poi, prima di passare al secondo, vi dico un'altra cosa. Nella Gloria di San Pietro, aperto il Concilio Ecumenico Vaticano II. 3.000 vescovi provenuti a Roma da ogni parte del mondo raggiungono il massimo tempio della cristianità. Il corteo è lungo circa 4 chilometri. Tutte le campane di Roma suonano a festa quando Giovanni XXIII esce dal portone di bronzo. Accanto al presidente Segni, i capi delle missioni giunte da ogni angolo della terra. La messa dello Spirito Santo precede l'apertura del concilio. La celebra il cardinale Tisserò. Dopo il credo, l'abbraccio in segno di comunione tra il Papa, i cardinali e i vescovi. Giovanni XXIII legge quindi la sua allocuzione in latino, la lingua ufficiale del concilio. Egli dice tra l'altro: a noi sembra di dover dissentire dai profeti di sventura che annunciano eventi sempre infausti, quasi sovrasti la fine del mondo. Nel presente ordine di cose, la buona provvidenza ci sta conducendo ad un nuovo ordine di rapporti umani. A sera sulla folla scendono ancora le parole del pontefice. Continuiamo a volerci bene, cogliendo quello che ci unisce e tralasciando quello che può tenerci disuniti. Tutti gli occhi fissano la sua finestra. Tra mille luci ciascuno vede lassù la luce della speranza. Diciamo che Giovanni XXIII era stato molto criticato per aver voluto convocare il concilio. C'era stato un concilio, il Vaticano I, nel 1870, ai tempi della Unità d'Italia, ed era stato interrotto proprio perché si stava realizzando l'Unità d'Italia. Però quel concilio aveva decretato l'infallibilità del Papa, del Romano Pontefice. E allora si dicevano i cardinali e altri esperti, insomma, della materia, si dicevano: ma se è stata decretata l'infallibilità del Papa, a cosa serve un nuovo concilio? Ecco, e allora Papa Francesco, scusate, adesso penso sempre a Francesco, Papa Giovanni spiega: sono cambiati i tempi sono talmente cambiati che la Chiesa, per restare fedele al Vangelo e alla missione che il suo fondatore le ha affidato, si deve fermare, deve fermarsi e cercare di capire che cosa nel suo modo di vivere la fede, e che cosa non va bene per questi nuovi tempi, nel senso che non parla agli uomini di oggi. Allora, avete sentito quella frase che Giovanni XXIII dice: contro i profeti di sventura, perché con i tempi che cambiavano la mentalità era: dove andremo a finire? L'abbiamo sentita tante volte, no? Dove andremo a finire? E lui dice: ma se è vero, ed è vero, che la storia, nella storia entra l'azione di Dio attraverso lo Spirito Santo, attraverso la provvidenza, allora se è vero non c'è un tempo, per quanto sia critico, che non porti del bene, che non porti qualcosa, anche se questo qualcosa si realizzerà nel corso dei tempi e anche con l'aiuto di persone che magari ancora non stanno operando. E questa è la prima risposta. Bisogna dire che con tutti gli attacchi che ha ricevuto Giovanni XXIII si è sempre mantenuto molto sereno, molto pacato. Nel suo diario intitolato Il giornale dell'anima, però, racconta, ogni tanto anche si sfoga dicendo: mi dicono questo, mi criticano su questo, per quanto mi riguarda io ho promesso a Dio obbedienza e umiltà e quindi io vado avanti, e gli è riconosciuto il merito di essere andato avanti. Allora adesso vediamo in questo secondo, vedete, cronaca con l'obiettivo. L'obiettivo, qual era lo scopo? Ecco, bisogna precisare che proprio perché c'era stato quel concilio del 1870, di solito i concili venivano convocati quando c'erano dei problemi dottrinali, esempio c'era un'eresia, bisognava correggerla, oppure c'erano dei problemi disciplinari. E in questo periodo, negli anni 50-60, non c'erano problemi particolari, per cui non era necessario un concilio. Ecco, e il Papa parlerà della necessità. In sostanza bisogna rivedere la fede, verificarci dal punto di vista della fede e vedere in che modo noi possiamo trasmetterla agli uomini del nostro tempo. Allora guardiamo anche questo. Giungono a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, gli ultimi vescovi e arcivescovi che si apprestano a partecipare a uno dei più grandi eventi della cristianità, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Insieme agli altri prelati della Francia settentrionale giungono i vescovi del Laos, di Tahiti, della Guadalupe, della Caledonia e dell'Africa. Poi, la mattina dell'11 ottobre, una data che passerà alla storia della Chiesa, si è avuta la grande e solenne cerimonia inaugurale del Concilio. Una cerimonia allo stesso tempo fastosa e mistica. Lento ha sfilato per piazza San Pietro il corteo di tutti i vescovi del mondo. Giovanni XXIII, in sedia gestatoria, ha chiuso il lungo bianco corteo. Il pontefice non aveva la chiara perché egli ha voluto essere in questa occasione un semplice vescovo tra vescovi. Il Concilio Vaticano II dovrà riaffermare la continuità della Chiesa nella consapevolezza delle esigenze del mondo moderno. Il Santo Padre, pur esprimendo il suo vivissimo dolore per l'assenza di molti vescovi imprigionati per la loro fedeltà a Cristo, ha manifestato la sua soddisfazione perché la Chiesa oggi, finalmente non soggetta a tanti ostacoli di natura profana che si avevano nel passato, può liberamente riunire il Concilio nella Basilica Vaticana. La Chiesa, ha detto il Pontefice, non deve discostarsi dalla verità ricevuta dai Padri e al tempo stesso deve guardare alle condizioni e forme di vita introdotte nel mondo odierno, le quali hanno aperto nuove strade all'apostolato cattolico. Il Concilio appare caratterizzato dalla fervida ricerca dell'unità di tutti i cristiani e adesso tutto il mondo guarda in trepidante attesa. Allora anche qui avete colto, no? L'obiettivo è aggiornare la fede, vedere quello che non permetteva alla Chiesa di quel tempo di restare fedele al Vangelo, e cercare l'unità. Un primo aggiornamento sicuramente era quello di cercare l'unità di tutti i cristiani, c'erano le varie confessioni, protestanti, ortodossi, no? Cercare l'unità, quindi fare un discorso ecumenico e poi semplificare molte cose. Adesso vediamo l'ultimo. Questo qui ci fa vedere un po' una sintesi di tutto il concilio. Dura solo 3 minuti comunque. concilio si è concluso. La sua storia, dal primissimo annuncio dato da Papa Giovanni nella Basilica di San Paolo fuori le mura e l'ultimo messaggio di Papa Paolo in San Pietro, è durata 7 anni. Era infatti il 25 gennaio 1959 quando Giovanni XXIII parlò per la prima volta della necessità di indire una grande assise della Chiesa, dando al mondo intero l'impressione che un evento straordinario stava per compiersi. La preparazione durò quasi 4 anni e finalmente l'11 ottobre 1962 Papa Roncalli prendeva contatto con l'assemblea di 2700 padri conciliari. Il concilio ora ha portato a termine il suo compito, 37 mesi e 27 giorni di lavoro, 168 riunioni plenarie, 9 sessioni pubbliche e 544 votazioni. In totale 16 documenti approvati. Essi rappresentano l'aggiornamento della dottrina cattolica sulla liturgia, sulla divina rivelazione, sulla Chiesa nel mondo del nostro tempo, sull'ecumenismo, sulle chiese orientali cattoliche, sui doveri pastorali dei vescovi. È stato anche discusso e approvato il rinnovamento della vita religiosa, dei seminari, dell'apostolato dei laici, dell'attività missionaria della Chiesa, della vita sacerdotale, dei rapporti con le altre religioni, dell'educazione cristiana, della libertà religiosa. I padri conciliari hanno dato prova del loro spirito innovatore anche nelle cose più semplici, come quella di adottare per le votazioni moderni sistemi elettronici a scheda perforata. Nuove concezioni e volontà di aggiornamento sono emerse anche per quello che riguarda gli aspetti esteriori della vita religiosa, per esempio un qualche cambiamento negli abiti talari. Per la verità il Concilio non ha preso alcuna decisione circa il tipo di abbigliamento che dovrà essere adottato in futuro. Numerose sono state invece le proposte avanzate dai profani. Ecco un esempio dei suggerimenti venuti dalle case di moda. Per le suore, tailleur con gonna a pieghe e cappellino con lungo nastro di velo. Per i sacerdoti, invece della tonaca e del cappello a larghe falde, il clergyman e la ovvia. Questa è l'ultima grande seduta del Concilio sotto la volta di San Pietro. Una seduta spettacolare e significativa non solo perché chiude la straordinaria assise della Chiesa, ma anche per i due avvenimenti di portata storica che vi vengono annunciati da Paolo VI. Il Giubileo, antica prerogativa di Roma, come sede papale viene anticipato al 1966 per celebrare la fine del Concilio ed è esteso dalla sede di Pietro a tutte le cattedrali del mondo dove i padri conciliari tornano ora a esercitare il loro ministero. E poi l'annuncio più solenne. Roma e Costantinopoli cancellano le scomuniche che si erano scambiati nel 1054 Papa Leone IX e il Patriarca d'Oriente Michele Cerulario. Cade così un'altra delle barriere che da quasi un millennio divideva i cattolici dagli ortodossi. L'annuncio dato da Paolo VI può essere preso a simbolo dello spirito ecumenico del Concilio. In Piazza San Pietro il Papa conclude l'avvenimento con la celebrazione della Messa. Esce dalla porta di bronzo in sedia gestatoria, preceduto dal lungo corteo dei padri conciliari vestiti di bianco e si china ogni momento a benedire, a salutare. 200.000 persone beniscono la piazza. Nella storia della Chiesa si apre ora una nuova fase, quella del rinnovamento pratico sulla base delle decisioni prese dall'Assemblea straordinaria nei 3 anni di discussione. In questo senso si può addirittura dire che il vero Concilio comincia o ricomincia oggi. Bene, abbiamo detto già tutto, no? Molto. Beh. Può essere stato interessante vedere. Sì, bene. Ricordo ancora questa mattina, eravamo presenti tutti e due con a questa presentazione dei lavori del Sinodo. Anche il Vescovo, ti ricordi, diceva che quando lui ha incominciato a dire che avrebbe voluto indire un sinodo, ha ricevuto diverse lettere che lo sconsigliavano, persone che dicevano ma no, lascia perdere, non è il caso, eccetera. Mentre dopo qualche mese, dopo questi incontri che sono stati fatti, non ha più sentito nessuno che lo sconsigliasse dal cammino che è stato intrapreso. E mi riaggancio a quanto diceva qua questo filmato d'epoca, diceva il Concilio comincia adesso, no? E anche il Vescovo diceva ma a me piacerebbe che uno, io ho già in mente alcune prospettive del dopo sinodo, no? Senza sapere cosa deciderà il sinodo, ma comunque una delle prospettive è comunque quella di continuare in questo stile di dialogo, di ascolto, di consultazione della comunità rispetto alle decisioni che si devono prendere e agli orientamenti che ci si vuole dare, no? Quindi questi eventi hanno un significato in sé nel momento in cui accadono, ma poi hanno dei significati importanti anche dopo. Beh, in parte hai già accennato prima, per esempio, al Concilio Vaticano I del 1870, un concilio radicalmente diverso da quello di cui stiamo parlando, come diverso fu il Concilio di Trento, naturalmente, di qualche secolo prima, o i concili dei primi secoli. Dunque, che tipo di concilio è stato il Concilio Vaticano II? Allora, ci sono innanzitutto tre caratteristiche peculiari. La prima l'abbiamo vista, ecumenico, nel senso che vi hanno partecipato tutti i vescovi di tutta la terra, di tutti i paesi dove c'era anche una piccola chiesa. E poi è stato aperto l'ecumenismo alla unità dei cristiani. La seconda caratteristica è che è stato un concilio pastorale. Dicevo prima che non c'erano dei problemi dottrinali da analizzare o disciplinari. Ecco, quello che voleva Giovanni XXIII era di preoccuparsi di come gli uomini che vivevano nei tempi moderni potessero vivere l'esperienza della fede. La Chiesa dava le verità, insegnava le verità, annunciava delle verità, ma l'uomo moderno come le recepisce queste verità? Come avviene la scelta della fede? Com'è che io credo e prendo seriamente queste verità? Se pensiamo ai concili che c'erano stati prima, generalmente dicevano: questa è la verità. Chi non mette in pratica e non accoglie questa verità, sia anatema, sia deve essere chiamato, deve essere rimproverato, eccetera. Quindi presentava la verità e poi indicava come sarebbe stato punito chi non ci credeva, insomma, non l'accoglieva. Ecco, la pastoralità di questo concilio, che coincide proprio con il pontificato di Giovanni XXIII. Scusa, non mi posso alzare, vero? Mi alzerò e mi siederò perché riesco a parlare meglio. Lui aveva una sensibilità grandissima, era un uomo molto semplice, veniva anche da una classe sociale povera di contadini, però era molto colto. Aveva fatto un'esperienza di nunzio apostolico in paesi dell'est europeo, in Bulgaria, in Grecia, poi è stato a Parigi, nella Parigi laica, Parigi intellettuale, e quindi è stato a contatto con persone diverse, di fede diversa, di cultura diversa, con gli ebrei, con i musulmani, e quindi incominciava a vedere le cose in una prospettiva più internazionale, più aperta. E allora questa sua sensibilità noi l'abbiamo scoperta anche attraverso la pubblicazione dei diari di chi ha seguito il concilio in quegli anni. Prima erano stati pubblicati soltanto i documenti del concilio e i discorsi dei papi. Col tempo, siccome le polemiche, i dibattiti sono stati sempre molto molto caldi, molto anche accaniti, spesso spiacevoli, si è deciso di guardare anche agli archivi dei padri conciliari, i loro diari. Allora, uno di questi diari è quello del direttore della Civiltà Cattolica di allora, Monsignor Tucci, il quale doveva andare regolarmente da Papa Giovanni XXIII per fargli approvare il numero della Civiltà Cattolica, la rivista che c'è ancora oggi, no? E quindi parlava con lui e Giovanni gli spiegava le cose, gli spiegava come intendeva. Allora, per esempio, una delle cose che su cui lui insisteva era: basta correggere sempre gli errori, basta guardare a quello che divide, guardiamo quello che unisce. questa era una sensibilità sua bellissima. Poi per quanto riguardava per esempio il periodo in cui lui viveva, era un periodo in cui a livello internazionale c'era la cosiddetta guerra fredda, i due blocchi, blocco marxista comunista e il blocco invece che faceva capo agli Stati Uniti e liberista, si contrastavano senza ricorrere alle armi, però c'erano molte tensioni ideologiche. In Italia c'era l'avanzata dei comunisti quando governava la Democrazia Cristiana, e c'era chi appunto gridava o comunque diceva mai l'alleanza con le sinistre. Ecco, il clima era questo, no? E lui diceva: non eliminiamo nessuno, non guardiamo, andiamo per ideologia escludendo, noi dobbiamo cercare il bene comune. E il bene comune, oggi come oggi, in un mondo che sta cambiando, lo si costruisce insieme. Però era molto, molto attento a non toccare assolutamente la dottrina, quella era intoccabile, le verità erano intoccabili, però bisognava cercare, e quindi ecco questa parola importante del dialogo. Il dialogo e l'attenzione per l'altro, perché non è detto che prenda così subito, come se niente fosse, le verità che tu gli dici e che obbedisca. E la punizione, il richiamo, la scomunica, escluderlo. Ecco, per esempio, molti si aspettavano che scomunicasse il comunismo, una scelta che Giovanni XXIII ha fatto anche per aiutare. Avete sentito a un certo punto che c'erano dei vescovi che non poterono venire al concilio, erano quelli dell'est europeo che non ottennero il permesso dai regimi comunisti di venire. Uno dei pochi che lo ottenne fu Karol Wojtyła, che lo seguì dall'inizio alla fine, quello che poi divenne Giovanni Paolo II. Ecco, è un'eccezione, lui dice. Sono sicuro che questo è stato voluto da qualcuno, da Dio, no? E, però c'era questo problema di persecuzione dei sacerdoti, dei cattolici nei paesi comunisti. Allora Giovanni XXIII dice: ma noi dobbiamo stare attenti a queste cose, e quindi ha promosso il dialogo. Allora tutto questo lui l'ha voluto portare nel concilio. E quindi un concilio pastorale che si preoccupava della fede e dell'annuncio della fede a ogni uomo, a tutti gli uomini, indipendentemente dalla cultura, perché questo era il compito della Chiesa. La terza caratteristica è la collegialità. Collegialità nel senso che i vescovi potevano intervenire nelle discussioni. Il presidente del concilio, chi presiedeva era il Papa, come chi presiede il sinodo è il vescovo, no? Però il Papa voleva ascoltare, voleva che parlassero. C'erano vescovi che venivano da tutti i paesi del mondo, e c'erano i popoli africani che stavano conquistando la libertà, c'erano i popoli del sottosviluppo, c'erano i popoli ricchi. Quindi la realtà di tutta la Chiesa mondiale era variegata, e quindi la collegialità è stata molto importante, fatto nuovo, perché le decisioni non venivano più prese da Roma, dal Vaticano, diciamo, no? Ma erano il frutto di una riflessione seria di tutti i pastori della Chiesa. Ecco, questo è il primo punto. Grazie. Maria Nibia si alza in piedi perché lei è una professoressa, no? Quindi giustamente. Io invece sono un giornalista, allora se il giornalista quando scrive deve stare seduto. No, poi sono anche direttore della Caritas, allora il direttore della Caritas è una persona al servizio e dovrebbe essere piegato, ma qua non mi sembra il caso, allora rimango seduto. Ricordo anche che tra le molte persone che hanno partecipato al concilio, oltre tu hai ricordato Carol Wojtyła, ma c'era anche uno di noi, cioè Józef Gargitter, il vescovo. Allora, diciamo, ha cominciato il concilio come vescovo di Bressanone e l'ha finito come vescovo di Bolzano-Bressanone, perché nel frattempo, proprio durante il concilio, nell'agosto del 1964, fu creata la diocesi di Bolzano-Bressanone, che coincide con l'attuale provincia di Bolzano, mentre prima l'Alto Adige era suddiviso in due diocesi, Bressanone a nord e Trento nella parte dove ci troviamo, Bolzano, Merano, eccetera. Ecco, e il vescovo Gargitter non fu una presenza muta, fu una presenza significativa, e intervenne proprio in una delle discussioni fondamentali del Concilio Vaticano II, laddove si rifletteva su quale fosse il volto nuovo che avrebbe dovuto avere la Chiesa, cioè come intendere la Chiesa, come un'istituzione calata dall'alto, eccetera, o come un popolo di Dio in cammino. E il vescovo Gargitter fece delle proposte che erano tese proprio a mettere in primo piano questa dimensione comunitaria e di popolo di Dio da parte della Chiesa Cattolica. Quindi il vescovo ha dato il suo contributo, però le novità furono tante, come c'è un dibattito naturalmente che non finirà mai sulla natura di queste novità, cioè se si tratti di elementi di rottura oppure di continuità, eccetera. Diciamo, sicuramente dopo il concilio si è respirata un'aria nuova, e anche cose millenarie, cose vecchie se vogliamo, hanno assunto un volto nuovo. Ma sentiamo da Maria Nides Zaccaria quali sono le principali novità introdotte o riscoperte dal Concilio Vaticano II. Allora, innanzitutto una Chiesa aperta. Sentite anche Papa Francesco che lo dice, no? Non voglio una Chiesa chiusa. Magari che si faccia anche male, ma che si apra. Una Chiesa aperta al mondo contemporaneo. Com'era la Chiesa prima? Questa è una novità grandissima. La Chiesa per secoli, alle origini la Chiesa era aperta, era coraggiosa, annunciava. Poi ci sono stati gli anni delle persecuzioni, poi le lotte con il potere politico, e poi a un certo punto la Chiesa che si struttura come società perfetta, gerarchica, la gerarchia in alto, come una piramide, vescovi, cardinali, il Papa, vescovi, cardinali, sacerdoti, diaconi, e poi sotto il popolo che era formato da laici, da non consacrati, insomma. Ecco, una Chiesa che per starci dentro, per farne parte, richiedeva che tu accettassi la dottrina e fossi obbediente senza discutere. Cosa fa il Concilio? Il Concilio riflette sulla natura della Chiesa partendo dalla parola di Dio, e dalla parola di Dio che parla di un Dio che ha un progetto su tutta l'umanità, riunire questa umanità. E quindi la prima cosa che dice la Lumen Gentium, questa Costituzione sulla Chiesa, a cui ha contribuito anche il vescovo Gargitter, era questo: la Chiesa è un mistero, prima di tutto è mistero, perché viene da un Dio che per noi non è un Dio indefinito. Se noi guardiamo la Bibbia, è un Dio che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo, è un Dio Trinità, e ognuna di queste persone ha un progetto, interviene nel progetto sull'intera umanità, interviene come Padre, interviene come Figlio, interviene come Spirito Santo. Ecco, la Chiesa allora ha una realtà visibile, che sono le persone, ma anche una realtà invisibile che è guidata da Dio stesso, dallo Spirito Santo. Chi fa parte della Chiesa? Appunto, prima si diceva di la gerarchia, chi vive le verità. Fanno parte i battezzati, tutti i battezzati. Naturalmente si apre la porta alle altre confessioni, i battezzati. E i battezzati sono anche i laici. E allora questa grande rivalutazione è una delle cose più grandi, delle novità più grandi, la rivalutazione dei laici, del laicato. Pensate che al concilio erano stati invitati dei laici come uditori e non c'erano le donne. Addirittura le donne non erano ammesse alle celebrazioni eucaristiche che si facevano in San Pietro durante il concilio. Non potevano entrare. Dopo la seconda, quando arrivò Paolo VI, e lui cambiò anche alcune persone che avevano la responsabilità di moderare l'assemblea, successe che qualcuno di questi moderatori, fra cui il cardinale Sunens, che era belga, dissero: ma non vi accorgete che in questa assemblea manca metà dell'umanità? Noi vogliamo portare l'annuncio del Vangelo all'umanità intera. Non vi accorgete che manca metà dell'umanità? Allora molti si dicevano: ma chi è che manca? No? Mancano le nostre sorelle nella fede. Paolo VI, da quel momento, prendendo spunto da questa richiesta, ammise le donne al concilio come uditrici. 23, 10 religiose, 13 laiche. Ma la novità questa ha prodotto delle ulteriori novità, perché le donne poterono da quel momento iniziare gli studi di teologia. Il problema era che la donna era considerata inferiore anche dal punto di vista intellettuale, tanto da non poter studiare la teologia. Da quel momento furono ammesse, e molte adesso insegnano teologia nelle facoltà teologiche. Questa è per me una delle novità. Se io sono qui è grazie al concilio. Se ho potuto scrivere un libro sul concilio è grazie al concilio. Se noi laici siamo qui a parlare di queste cose è grazie al concilio. Ecco, allora questa nuova idea della Chiesa. E poi il primato della parola, attenzione alla parola di Dio. Adesso noi, quando andiamo a messa, chi di noi frequenta la Chiesa sente sempre almeno due letture, una lettura il Vangelo. Prima la Bibbia era nelle mani solo dei chierici, dei religiosi, e adesso la parola di Dio, noi possiamo comperarci la Bibbia, guardarla, leggerla, confrontarci e così via. Un'altra cosa riguarda la liturgia. Molti hanno accettato malamente che si celebrasse la messa nella lingua del paese. Era sempre celebrata in latino. Non so se qualcuno ricorda o ha visto, voi le giovani no, assolutamente, ma il sacerdote girava le spalle verso l'altare, girava le spalle al popolo e parlava più o meno sottovoce in latino. Il popolo faceva quello che poteva, insomma, un po' diceva il rosario, un po', non so, avevano libretti e così, no? È la prima cosa che dice: se la Chiesa è formata da tutti i battezzati hanno il diritto di partecipare alle celebrazioni e capire cosa succede. Per cui la liturgia, con il documento, la Costituzione Sacrosanctum Concilium, no, ha portato a tradurre tutte le celebrazioni, i testi delle celebrazioni, non so in quante lingue, tutte le lingue del mondo. Anche questa è una grandissima novità. L'altra novità è appunto quella della Gaudium et Spes, come accennavi tu, ed è il fatto che la Chiesa non si limita ad annunciare dall'alto, ma partecipa alle sofferenze e alle gioie degli uomini del suo tempo. E allora questa partecipazione la fa soprattutto attraverso i laici. E siccome un altro punto della Lumen Gentium è che affermava che tutti i battezzati, tutti i membri della Chiesa sono chiamati a diventare santi, un ideale molto alto, ma santità significa vivere il Vangelo. Scusate, santità, vivere il Vangelo è alla portata di tutti. E allora un altro esempio della pastoralità del Concilio era che in alcuni documenti spiega in che modo il laico si santifica. Per esempio, i genitori si santificano educando i figli, seguendo. Possiamo dirlo, vero, che ci si santifica educando i figli? Ci si santifica nel lavoro, nell'ambiente di lavoro, vivendo i valori cristiani, nell'economia. Oggi come oggi sono temi attualissimi. Ecco, santificarsi è vivere la fede in modo autentico, senza lasciarsi prendere dall'onda del momento e quindi adattarsi alla mentalità corrente. Grazie. Aggiungiamo magari che l'attenzione della Chiesa è stata spinta non solo nella società, ma anche ad un rapporto di dialogo con la società, non solo con chi non crede, ma anche con chi crede diversamente. Quindi documenti importanti del Concilio ci aiutano nella convinzione che anche chi appartiene ad altre comunità religiose, percorre altre strade, lo fa in modo convinto e sincero, sta camminando verso una meta comune. E quindi non certo per la prima volta, ma per la prima volta in modo così autorevole in una sede come un concilio, la Chiesa Cattolica esprime la sua stima nei confronti degli appartenenti ad altre religioni, in modo particolare agli ebrei, poi in modo esplicito anche ai musulmani, ma anche a tutte le altre tradizioni religiose. Questa è una cosa per molti versi rivoluzionaria, perché fino ad allora, non dappertutto, però diciamo, il sentire predominante era quello di dire: noi abbiamo la verità e tutti gli altri no. Molto semplicemente così, cosa che appunto aveva portato, contribuito anche a portare, a instillare sentimenti di antisemitismo, per esempio. Questo è uno dei motivi, anche se non l'unico motivo, e non si trattava comunque di un atteggiamento razzista, per così dire, avevamo diciamo connotati religiosi. E poi naturalmente la via dell'ecumenismo, quindi chiedersi se ha senso e fino a che punto ha senso che i cristiani siano divisi, no? Oggi in qualche modo ci diciamo che tutto sommato ha senso se camminano sulla stessa strada, cioè anche le diversità hanno un significato, non occorre essere tutti uguali, no? Anche perché la verità al 100% non ce l'ha nessuno, no? Di questo oggi siamo consapevoli grazie anche a questi passi importanti che sono stati fatti al Concilio Vaticano II. Ora, naturalmente bisogna anche dire che non è tutto nato negli anni del Concilio. Gli anni del Concilio sono stati un traguardo del cammino di molte persone che anche con sofferenza e anche a volte nella persecuzione, per così dire, hanno fatto un loro cammino di ricerca sul piano scientifico, sul piano teologico, sul piano ecclesiale, cioè hanno sperimentato molte cose che poi il Concilio ha detto che erano buone. E oggi appunto sono passati molti anni, più di 50 anni dall'apertura del Concilio, e potrebbe essere semplicemente un pezzo di storia o di memoria così da raccontare, come fanno i nonni con i nipoti. E invece, in qualche modo, noi sentiamo che il Concilio Vaticano II è una cosa che ci riguarda anche oggi, cioè ha una sua attualità. In che cosa consiste, secondo te, questa sua attualità? Ecco, ci sono almeno due punti di attualità. Il primo punto è: noi ci siamo accorti che i tempi in questi 50 anni sono cambiati, è cambiato l'uomo. Se pensiamo ai nostri giovani, ci sono tante cose che rischiano di non farci capire. E l'adulto stesso è cambiato, la nostra vita è cambiata con l'avvento anche dei nuovi mezzi di comunicazione. Facciamo presto a connetterci e a disconnetterci, per cui anche i rapporti, le relazioni, se non ci vanno bene, rischiamo di dire: beh, adesso mi disconnetto, basta, con te è finita. Ecco, sono cambiate molte cose, e allora ci sono anche molti modi di pensare, molte lingue, molte culture, molte religioni. Allora la prima cosa attuale del Concilio è che ci insegna, ci sta dicendo cosa vuol dire essere cristiani nel mondo d'oggi. Innanzitutto la fede è una questione di scelta, non è più un'eredità. Pensate a quanti nelle generazioni precedenti erano cristiani e se nascevano in una famiglia cristiana, ricevevano sacramenti, l'iniziazione, e quindi se non eri un cristiano autentico, la famiglia insomma interveniva oppure si lamentava. Adesso o tu in questo mondo così variegato fai la tua scelta di essere cristiana, oppure non lo sarai mai, perché sono anche tante le difficoltà per vivere la propria fede. Allora c'è una frase molto bella del Cardinale Martini, e lui scrive: oggi, grazie al Concilio, è difficile far parte della Chiesa ed esserne soltanto un membro passivo, perché il Concilio ha detto: tu devi fare la tua parte, no? Ma chi agisce e assume responsabilità può cambiare molte cose. Questo è importantissimo. Possiamo dire come Paolo: io sono un altro Cristo. Egli non ha oggi altre mani, altra bocca che la tua e la mia. Se ti metti a disposizione di Cristo, se sai che sostieni la sua Chiesa, imparerai ad amarla, anche quando ti fa soffrire. Ecco. Io pensavo, nel riflettere su questi punti, come è stata la mia esperienza di insegnante negli anni anche della contestazione, la contestazione dei giovani, che spesso noi insegnanti non capivamo, o che magari liquidavamo, no? Come dire, non hanno voglia di studiare. Non è che io lo dicessi, però certe volte dicevo: ma chissà che non abbiano ragione quelli che lo dicono, no? E forse la generazione di chi è venuto dopo di noi ha avuto il ruolo proprio di contestare tutto quello che non era autentico, che era abitudine, che era dato come scontato. Certi modi di essere e di fare, compresa la religione come vissuta come eredità, più di tutte le altre scelte, quella religiosa richiede veramente una scelta libera. E allora il secondo aspetto dell'attualità del Concilio, secondo me, ma non solo secondo me, è il fatto che il Concilio ci insegna la grammatica della fede. Di grammatica della fede ha parlato Papa Francesco, che è quello che sta facendo lui, anche ottenendo consensi anche da chi non è cristiano o non è cattolico. Ecco, e in sostanza la fede è un dono che tu ricevi anche se lo cerchi, cioè se gli dai una certa importanza. Chiaro che se non ti interessa hai già fatto una scelta. È un dono che viene dato gratuitamente da Dio e che richiede però che io lo accolga. La fede non può restare così, quello che hai imparato da piccolo. La fede è fatta di scelte continue. E sta parlando la Chiesa della porta della fede, l'anno della fede, no? Il Papa Benedetto parlava di porta, cioè tu passi attraverso la porta la prima volta che scegli la fede. Poi però davanti a te ci sono altre porte chiuse, cose che non capisci, il mistero, perché il male, perché il bene deve sempre subire dal male, perché questo, perché quest'altro, tante porte che richiedono che tu faccia delle scelte. La fede non si vive da soli e richiede che poi tu entri in una comunità in modo che ti confronti con altri, ma poi la fede non è solo per te, per la tua felicità, è per incidere sulla situazione del mondo. Ecco che se tu fai questa scelta non puoi restare passivo nel mondo, allora lì non c'è età, non c'è condizione, non c'è situazione di cultura o meno per non fare. Ecco, secondo me queste sono le due forme di attualità. E concludo ricordando un pensiero di tutti i papi dopo il concilio, da Paolo VI, Giovanni Paolo I, che ha vissuto pochissimo come papa e ha fatto in tempo a dire solo di cercare di attuarlo il concilio, Giovanni Paolo II, Benedetto. Francesco non parla tanto, ma ce lo fa vedere cos'è, perché non potrebbe mai essere stato un papa, fra l'altro, che va in aereo, si porta la borsa, avete visto, no? Tanti segni, ecco, telefona, questo è il vero, è un frutto del concilio, insomma. Ecco, e dicevano tutti che finito il concilio ci vogliono dei credenti che ci credono, accettano la scommessa di portarlo avanti. Per quanto mi compete, faccio la mia parte, perché il concilio porti queste novità molto belle. Ecco, in questo, permettimi di concludere, e concludo veramente, questo è stato un po' anche lo scopo del libro che io ho scritto. Non l'ho scritto per me, l'ho scritto come gratitudine al concilio e al Signore che mi ha promosso come laica, come donna, e quindi dovevo dire anch'io la mia, ed è stato grazie al concilio. Però è anche un dono che faccio a chi vuole, perché ho trattato tutti i documenti, naturalmente in modo sintetico, da insegnante, no? In modo che chi vuole sapere, insomma, che cosa dice a proposito della libertà religiosa, è un altro tema importantissimo. Cosa dice? Ecco, c'è la sintesi del documento. Cosa dice della Chiesa? Questo servizio, diciamo, che è una base per i non addetti ai lavori, però diciamo così, insomma, che siamo impegnati, non è un obbligo, ma sarebbe bene che lo guardassimo, perché fa del bene a tutti il concilio. Grazie. Oltretutto mi viene da pensare, no? Tu hai fatto l'elenco di tutti i papi, il Papa Francesco, che non parla tanto del concilio, forse anche perché lui è il primo papa a non esserci stato, no? Tutti i papi che l'hanno preceduto in qualche modo sono stati presenti al concilio. Lui naturalmente è un figlio del concilio, nel senso che non è nato, si è formato e ha cominciato il suo ministero nella chiesa del Concilio Vaticano II. Adesso io, prima di dare la parola al nostro pubblico, vorrei ringraziare Maria Nives Zaccaria per questo libro che lei ha scritto, Nel tempo della grazia, una rilettura del Concilio Vaticano II alla luce dello Spirito Santo, edizione Rinnovamento nello Spirito Santo, perché da una parte ci ci permette di ragionare su questo evento importante e di comprendere che è un evento che ci riguarda ancora oggi, dopo 50 anni, ci dà ancora delle prospettive, ci dà ancora motivazioni per fare le nostre scelte. Dall'altra, come ha detto, con lo stile della maestra, ci dà delle schede molto leggibili, molto comprensibili e complete di tutti i contenuti dei documenti, che naturalmente alcuni sono scritti in uno stile abbordabile, altri sono un po' più per gli addetti ai lavori, se vogliamo. Quindi ecco, così i documenti, molti documenti del Concilio, oltretutto approvati a stragrande maggioranza dai padri conciliari, in questo modo sono a nostra disposizione. Quindi io la ringrazio e naturalmente vi invito ad acquistare il libro, che al prezzo di copertina di 14 euro, ma oggi in via del tutto eccezionale sarà offerto al prezzo di 12, giusto? Bene. Dopo questo spot, se qualcuno vuole fare qualche domanda o dire qualcosa, può farlo. Io volevo chiedere come mai, secondo lei, alle suore non viene data la possibilità di celebrare la messa con sarà un tema del sindaco, può darsi. Sì, ma vuoi. Ma questo è un problema della Chiesa universale, no? Che le leggi si ricavano dalle origini della Chiesa. All'inizio non era così. Il fondatore, Gesù Cristo, non l'ha fatto. E il tema può essere risolto a livello di concilio, di Chiesa universale. Io dicevo con Paolo adesso, deve essere stato proposto come tema anche per il sinodo, oppure il sacerdozio ai laici, no, non ai laici, alle donne, no? Ecco, o lo affronta un concilio, ma non so se ci siano prospettive, non lo so. Ma penso che anche loro non è che proprio stiano male se non gli viene concesso. Le suore? Alle suore. Non ho sentito una suora che si lamentasse personalmente. Diciamo che sicuramente è uno dei temi che sono stati sollevati in questi famosi incontri che sono stati tenuti a livello decentrato, per così dire. Diversi gruppi hanno parlato proprio o del ruolo della donna in generale, perché è vero quello che diceva il Cardinal Sunes 50 anni fa, ma 50 anni dopo in molte, diciamo, consessi della Chiesa Cattolica ancora questa metà dell'universo o manca del tutto o è sottorappresentata, per così dire, soprattutto nelle posizioni di vertice dove si prendono le decisioni. Quindi è una cosa a cui tutti bene o male guardano come un'incongruenza, per così dire. Ecco, poi la soluzione a questa situazione forse non ce l'abbiamo, c'è chi propone una cosa, chi ne propone un'altra, però il problema è sentito in primo luogo da Papa Francesco, che, se ricordate, quando fu intervistato in aereo, mi sembra tornando dal Brasile, disse: sì, sul sacerdozio della donna è già stato detto, però noi abbiamo bisogno di una teologia seria della donna nella Chiesa, che è come dire, le cose che abbiamo detto finora non le possiamo contraddire, però sappiamo anche che le abbiamo dette conoscendo poco di questa situazione, cioè è una cosa che dobbiamo approfondire. Quindi non ha detto da domani ci saranno dei cambiamenti, ma ha detto ci dovranno essere dei cambiamenti, noi per prima cosa dobbiamo studiare l'argomento seriamente, perché è un nostro obbligo. Quindi lui per primo si rende conto che le cose così come stanno non vanno bene. C'è anche qualche suora che almeno nell'incontro dove sono andato io a Merano, una suora ha proposto un gruppo di riflessione non sul sacerdozio ma sul diaconato, no? Sulla possibilità di di ammettere anche le donne al diaconato, come già esiste il diaconato permanente per gli uomini, anche questo introdotto, reintrodotto dopo il Concilio Vaticano II. E era un gruppo in cui si discuteva di questo e si diceva appunto come mai una suora che per esempio lavora in un ospedale e ha contatto con i malati non può dare l'unzione degli infermi, ma deve fermarsi e chiamare una persona che magari non ha nessun rapporto col malato, che viene lì solo in quel momento lì. Insomma, ci sono delle situazioni che non vanno bene, ecco. Poi naturalmente il sinodo diocesano non potrà decidere nulla su questo argomento, ma anche lì c'è la discussione, cosa facciamo dei temi che non sono di competenza di una diocesi. Non ne parliamo, oppure ne parliamo e poi diciamo, ecco, questo è quello che noi pensiamo, portatela quest'idea a Roma, perché lì poi chi deve decidere possa decidere, no? Quindi è un argomento anche importante. Perché ci sono sempre meno sacerdoti, quindi c'è anche quel motivo lì, no? Quindi, però anche se ce ne fossero abbastanza, comunque il tema si porrebbe in una società, diciamo, magari 60 anni fa, 100 anni fa, quando tutta la società era impostata in modo tale che le donne erano escluse da un sacco di professioni, allora la cosa poteva avere una sua logica. Ma oggi non esiste nessun ambito in cui la donna non sia parificata all'uomo, e quindi la cosa non ha così senso. Questo vale per la Chiesa Cattolica, ma valeva anche per la società civile, perché tu hai citato gli anni del Concilio, ma vuol dire che fino al 1946 anche in Italia le donne non erano ammesse al voto, quindi, no? E in altri paesi europei anche più tardi, quindi ecco, è un'evoluzione della società. E il concilio, il sinodo, questi eventi servono proprio per interrogarsi se la posizione che ha la comunità cristiana è in qualche modo in sintonia, non che debba copiare quello che avviene dalle altre parti, ma se è nelle condizioni di comunicare e di dire quello che deve dire, o se invece si mostra con un volto che a tutti gli altri è un po' incomprensibile, no? Non so se... Prego. Penso che la Chiesa oggi sia troppo indietro ai tempi attuali. Deve modernizzarsi, deve cambiare, ma cambiare non come fa questo Papa, che già è molto bravo e ha raccolto tanti consensi e tante simpatie, ma non bastano. Devono modernizzarsi molto di più, perché per me sono molto indietro rispetto alla società attuale. Sono delle cose che devono cambiare, dare la possibilità ai sacerdoti di sposarsi, di avere una famiglia, dare tante altre cose. Sono troppo indietro rispetto, perché i giovani non vanno più a messa, non vanno più, perché questa perdita di fedeli, perché le chiese sono mezze vuote, ci sono solo gli anziani, perché i giovani non frequentano più, non parlano più di questa, perché queste cose sono quello che avete detto, sono cose interessantissime. Io sono una cristiana non praticante, però mi piace ascoltare questo, è interessantissimo, però è troppo indietro la Chiesa. Ma cosa proporrei? La società, no, parte il matrimonio, no, tante altre cose, non solo queste. Io lo dico perché, come dico, sono cristiana ma non praticante, ma non sono atea. però trovo delle incongruenze, trovo delle cose che non sono al passo con la nostra società. È troppo poco. Cioè, devono andare più avanti, fare qualche passo più avanti. Non basta questo. Perderanno sempre più fedeli. Prego. No, io volevo solo fare una domanda alla signora, no? La colpa è della Chiesa o la colpa siamo noi? Dipende chi è la Chiesa. Cioè, non è la colpa, cioè, secondo me non è la colpa della Chiesa che è rimasta indietro. Cioè, la colpa c'è, tante cose noi non facciamo più. Cioè, vedo che l'insegnante di catechismo, cioè, io ho imparato a pregare a casa. Cioè, chi insegna i figli? Cioè, adesso tante cose sono state delegate, perché noi aspettiamo che la Chiesa cambi come vogliamo noi. Cioè, che lei si adegui a quello che la società dice, cioè il prete, cioè risolve. Cioè, la domanda è proprio quella, cioè la Chiesa che deve cambiare o siamo noi che abbiamo cambiato tanto come società da non... Avete visto prima nel filmato, diceva che faceva vedere che la Chiesa era all'avanguardia perché usava queste schede elettroniche, diceva. Naturalmente, questo per dire che si può confondere certe volte la modernità con qualcosa di esteriore, no? Non è che adesso la Chiesa diventa moderna perché usa i mezzi, perché usa Twitter. Il Papa lo fa, per carità, e diciamo anche un certo consenso per questo, no? Però quello che io mi accorgo spesso è che esiste questa sensazione, come ha espresso la signora, cioè che la Chiesa non è al passo coi tempi, per così dire, no? Arrivederci. Però quando si tratta di dire quindi quali passi sarebbe opportuno fare, ecco, lì le idee non sono sempre così chiare, perché un conto è appunto quello di cui abbiamo parlato, il ruolo della donna sicuramente è una cosa, il celibato obbligatorio o meno dei preti, anche queste sono possibili cambiamenti. Papa Francesco ha introdotto questa nuova tensione alla povertà, per esempio, della Chiesa, ma perché? Perché è importante che io quello che annuncio lo vivo anche, non dico una cosa e ne faccio un'altra, ma questa, permettetemi, è una cosa che vale per tutti noi, no? Stiamo appena faticosamente uscendo da questo scandalo delle pensioni d'oro, no? Dove, no? È evidente che se quella è la società, allora io dico la Chiesa è più avanti, non è più indietro, no? Rispetto a quella espressione della società. Poi certo che c'è anche la società di chi vive quotidianamente, di chi è disoccupato, di chi deve educare dei figli in questo mondo, di chi deve fare delle scelte a livello di matrimonio, eccetera, e in questo spesso i giovani non si riconoscono in determinate indicazioni che vengono date dalla Chiesa Cattolica. Ma tanto è vero che, anche qui cito ancora Papa Francesco, perché una delle critiche che gli vengono fatte è che non parla di questi temi. No, non parla per esempio di questioni legate all'etica sessuale, tanto per fare un esempio, non ne parla più di tanto, preferisce parlare delle cose che è necessario fare piuttosto che di quelle che non bisogna fare, no? Ha un atteggiamento differente, no? E questo è anche l'atteggiamento che molti giovani si aspettano dalla Chiesa, non una comunità che proclama divieti, ma una comunità che annuncia una buona notizia. Ho bisogno per la mia vita di una buona notizia, non di qualcuno che mi bastona per quello che faccio, no? Anche perché tutti quanti facciamo delle cose sbagliate, no? In questo senso certamente la Chiesa ha bisogno di, diciamo, adeguarsi ai tempi. Non è secondo me una formula del tutto giusta, no? Proprio perché i tempi non è detto che siano l'espressione che sia buono tutto quello che avviene, no? Io penso che su certe cose, per esempio, la Chiesa Cattolica è più avanti dei tempi, no? Per esempio quando si pronuncia sulla pace, no? O quando si pronuncia anche in campo politico. Noi abbiamo vissuto per tutto il dopoguerra, fino agli anni 90, fino alla fine degli anni 80, la cosiddetta guerra fredda, in cui si sono fronteggiati il comunismo, socialismo reale da una parte e appunto una società liberista dall'altra, ma tutti e due hanno fallito questi modelli, e l'unica voce in questa realtà che proponeva una terza via, cioè sì di solidarietà ma non di libero mercato a tutti i costi, cioè non lo Stato elevato a idolo, ma nemmeno il profitto elevato a idolo, l'unica voce era la Chiesa Cattolica in questo, no? In questo, cioè, era avanti, in altre cose era indietro, no? Questo bisogna dirlo, no? Però diciamo che è una cosa abbastanza complessa. In ogni caso, no? Ancora una volta, questo rende attuale il sinodo diocesano, dove appunto di queste cose che si discute, proprio tutti si chiedono come mai, dove sono i giovani nelle nostre comunità, che messaggio stiamo dando, che linguaggio stiamo usando, un linguaggio comprensibile, le cose che facciamo hanno senso, servono oppure sono superate. Tutte queste cose, se chi di voi a internet può accedere al sito del sinodo, proprio oggi sono stati pubblicati tutti i verbali e le sintesi di questi incontri, e vedrete che tutti questi interrogativi sono presenti. Poi che da qui al dicembre 2015 tutti i problemi trovino una risposta, questo non me la sento di garantirvelo. Ma secondo me anche molti giovani, ci sono tanti separati o divorziati, questi sono un po' discriminati dalla Chiesa, non possono accedere al sacramento della comunione, per esempio. Vabbè, che loro hanno, posso dire, sono venuti meno a un giuramento fatto, però se un po' il sacerdote ti dice, beh, non andare in un'altra chiesa, vai in un'altra, puoi fare la comunione, che per me è anche giusto, perché devo andare in un'altra chiesa dove non mi conoscono? E lì mi sento a posto nella chiesa dove frequento io. È anche questo un tema, è anche questo un tema del sinodo, un tema che è maturato adesso. Papa Francesco lo sta riprendendo, lui ha già toccato, sono già maturi diversi di questi temi, e ha aperto un po' la prospettiva che approfondendo la riflessione teologica qualcosa possa cambiare. Però noi non dimentichiamo che la Chiesa non è una, come diceva anche Benedetto, una ONG, non è un'associazione come tante che ci sono nel mondo. La Chiesa è prima di tutto mistero. La Chiesa è una realtà, una comunità di uomini e donne che riconoscono che sopra di noi, non nel senso di autorità, ma non come essere umano, riconoscono l'esistenza di un Dio che ama l'uomo, che ha un progetto sull'umanità intera, di unire questi uomini come una famiglia, è un Dio che ha un progetto che riguarda tutta la vita dell'uomo, dalla nascita alla fine della vita, che non finirà questa vita. Ecco, la Chiesa si riunisce, riunisce gli uomini e le donne che accettano questo presupposto. Allora su questo noi come documento a cui fare riferimento abbiamo il Vangelo, che ha lasciato il fondatore della Chiesa, che è Gesù Cristo. Quello che sta dicendo adesso la Chiesa, in modo particolare intendiamo i pastori della Chiesa che annunciano, che hanno il compito di annunciare, no? Sta dicendo che come prima cosa bisogna recuperare la fede, come riconoscere che Dio ha il primato nella nostra vita. Cioè, chi dice ciò che è bene e ciò che è male? La Chiesa dice, chi dice ciò che è bene e ciò che è male è Dio. L'ha detto attraverso Gesù Cristo e lo trovi scritto nel Vangelo. Tu adesso, il nostro sforzo è quello di capire bene il Vangelo per capire come interpretare certe situazioni che oggi sono delicate, che magari non c'erano prima. Come risponde il Vangelo alla situazione dei divorziati, risposati, che magari hanno già sofferto per la loro separazione? Come risponde? Se risponde che è possibile, sarà possibile ed è giusto che lo facciamo. Ma se risponde che non è possibile, bisogna trovare un altro modo per aiutare i divorziati e i risposati. Il punto di partenza è: chi decide ciò che è bene e ciò che è male? Accettare la fede significa lascio che sia Dio a decidere. E quindi ci sono, però noi conosciamo tantissime persone che, avendo fatto questa scelta, non è che si sono rovinate la vita, anzi hanno trovato una vita realizzata, perché ci sono altre cose che realizzano la vita, insomma, non solo il matrimonio, ecco. Ci sono tantissime realtà che sono nate dal Concilio, che sono i nuovi movimenti laicali fatti da laici, cioè a cui aderiscono in modo particolare i laici. E la prima scoperta di questi movimenti è che la fede nasce da un incontro con Dio, è un'esperienza spirituale. Come farla? E qui bisogna cercare, però si trova per farla. Da lì poi viene tutto il resto, i comportamenti. Prima c'è l'incontro, poi c'è che io aderisco e accetto. Però mi ricordo una frase che a me mi ha sempre guidato, del filosofo Pascal, filosofo matematico. E lui diceva: anche la scienza non è ancora riuscita a dimostrare che Dio non esiste. Ma anche la scienza moderna non c'è riuscita ancora a dimostrarlo, non puoi dimostrarlo, come non dimostra che Dio esiste. Allora c'è un 50% di possibilità che esista, un 50% che non esista. Allora tu che decidi che non esista, che non esiste, forse non rischi di perdere una chance per la tua vita? Vale la pena di provare? Mi viene in mente ogni tanto una canzone di anni fa cantata da Ornella Vanoni, non so se l'avete mai sentita. Proviamo che con Dio non si sa mai, iniziava, no? È uno di quei giorni che ti prende la malinconia e se ti prende non ti lascia più, no? E allora a questo punto proviamo che con Dio non si sa mai. Prova, vediamo se c'è, vediamo se lui è capace di intervenire nella tua vita. Ecco, questo è il punto di partenza della Chiesa, di cui però facciamo parte tutti, no? Allora a questo punto il primo compito diventa, in attesa che la Chiesa capisca cosa deve fare, intanto incomincio a muovermi io, vedere se c'è veramente, se vale la pena seguirlo questo Dio. Alla fine siamo provocati lì, E anche Francesco ha detto: chi sono io per giudicare? Non posso giudicare, no? Sì, nel senso che la persona, nessuno può dare un giudizio, men che meno una condanna sulla persona, no? Quello che possiamo fare è cercare di capire ciò che è bene e ciò che non è bene. Questo siamo in condizioni di farlo, perché, ma anche senza la fede, semplicemente con la ragione, no? Perché ognuno di noi chi crede, dice, è fatto a immagine e somiglianza di Dio, e quindi se ragiona correttamente ragiona come Dio, no? Quindi anche se uno non ha la fede, non parte dalla fede, comunque può riconoscere in se stesso la via del bene, certo. No? E questa è anche una cosa che si evince, certo, dal Concilio Vaticano II, no? Quindi questo è l'orientamento. Dopo, un'altra cosa forse che possiamo dirci è che io ho un gruppo di ragazzi che si chiedono queste cose, i ragazzi di 18-19 anni sono molto critici su queste cose, giustamente, e io dico sempre che in ogni caso la Chiesa non è il Papa, i Vescovi, i Cardinali, sì, è anche quello, no? Ma la Chiesa sono quelle persone come noi in quel momento lì che si interrogano sinceramente su queste cose, no? Questa è la Chiesa. Poi naturalmente a livello universale è strutturata, ha una storia, un'evoluzione, eccetera, no? Però la prima esperienza di Chiesa non la faccio ascoltando il Papa, per quanto bravo e simpatico lui possa essere, perché un domani che non ci sarà più Papa Francesco, allora no, io la faccio ascoltando chi è vicino a me e mi pone queste domande come avete fatto voi, e insieme cerchiamo una risposta. Questo è l'esperienza di Chiesa, no? Non leggere il giornale cattolico o ascoltare la radio, no? Adesso, no. Anche quella è esperienza di Chiesa, ma non è questo. L'esperienza di Chiesa è comunità, essere insieme, no? Come dice, lo dice nel Vangelo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questo è il nucleo centrale della Chiesa, no? È lì che noi dobbiamo interrogarci e capire cosa noi possiamo fare. Dopodiché troveremo naturalmente delle cose che non vanno, che bisogna cambiare, eccetera. E il compito di questa comunità è annunciare questa buona notizia, no? Che noi leggiamo nel Vangelo, altri trovano altrove anche, no? E è importante poi che la vita della comunità cristiana a sua volta annunci questa notizia, da una parte, no? Cioè che i cristiani con quello che fanno, non solo con quello che dicono, annuncino questa notizia, e soprattutto almeno che non la contraddicano, no? Perché naturalmente se escludiamo delle persone, se emarginiamo qualcuno, se buttiamo qualcuno ai margini, stiamo contraddicendo quello che noi stiamo annunciando, no? Per quello che, come dice Maria Nives, è alla luce del messaggio che troviamo nel Vangelo che noi possiamo capire se quello che stiamo facendo è buono o non è buono, no? Anche nel campo dei divorziati e risposati, o del ruolo della donna, o della figura dei preti, o del ruolo dei laici, di tutte queste cose qua, no? La risposta ultima non arriva nemmeno dal Concilio, arriva da una lettura comune, faticosa e forse senza risultati definitivi di questa buona notizia che noi troviamo sia nella Bibbia ma anche nella vita quotidiana, in quello che accade nell'incontro non solo con Dio, perché non tutti hanno l'esperienza dell'incontro con Dio, ma tutti abbiamo l'esperienza dell'incontro con i nostri fratelli, e questo è già moltissimo. E vorrei concludere citando un documento del Concilio, che è quello sulla libertà religiosa, che si intitola Dignitatis Humanae, e questo documento, che ancora deve essere capito, recepito e attuato, è il più moderno e anche il più rischioso, dice che l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, no? Ha il dovere di cercare la verità nella sua vita, cercarla seriamente, e quando nella sua coscienza è convinto che questa è la verità, allora la deve seguire, deve essere fedele. E come allora in un'esperienza di comunità, di comunione, io cerco la verità e mi convinco di qualcosa, ma mi confronto con altri che cercano la verità e sono convinti di altri, e quindi è un cammino. Quindi viene rispettata la coscienza. Se in coscienza io mi sento di fare così, anche se al momento non mi approvano, non mi riconoscono, al momento io sto facendo bene. È coraggioso il documento. dovrà essere ripreso perché non è ancora attuato in pieno, non è neanche tanto conosciuto. Però camminando di comprensione in comprensione, di verità in verità, arriveremo, dice San Paolo, arriveremo alla statura di Cristo, a ragionare come ragionava lui. Bene, potremmo discutere molto a lungo, però vi invito a partecipare a, eventualmente agli incontri del sinodo, che sicuramente ce ne saranno ancora adesso man mano che verranno individuati i temi, non so ancora come, comunque penso di sì. E ringrazio tutti voi per essere stati qui, ringrazio Maria Lina per la compagnia, ricordo che il libro è a disposizione.